Aloha, buongiorno e ben ritrovati. Io sono Chuck Bird e quello che stai ascoltando in questo momento è Early Bird Special, che è la primissima colazione che serviamo tutte le mattine, dalle 6 alle 7, dalle frequenze di Rock FM, la migliore musica del mondo, ve lo posso garantire, e il vecchio Chuck Bird che mi può raccontare qualche bella storiella di rock and roll. Benvenuti! Benvenuti in questo mondo selvaggio. It's a wild world. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Remember you like a child, girl. Baby, I love you, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad. And smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. È un mondo selvaggio, cari miei passerottini e le mie passerottine. Una vita dura che per molti inizia addirittura alle 6 di mattina. Ma ci sono qui io, il vecchio Chucky Boy, tutte le mattine dalle 6 alle 7 con Early Bird Special. A proposito di vita e di come ci viene servita, mi viene in mente una cosa che una volta mi ha detto il mio caro amico Jim Bob Luke. La vita è come una tazza di chili in un ristorante in cui non siamo mai entrati. A volte è bella piccante e saporita, altre volte ha un sapore di merda. Ma per voi solo i migliori ingredienti, perché questo è l'Early Bird Special, non un ristorante qualsiasi. Io vi preparo la migliore colazione rock in circolazione. Lo faccio perché vi voglio bene. For your love. For your love, for your love, for your love. My There'll be days that will excite and make you dream of me at night. For your love, Yardbirds, quelli che spaccavano le chitarre sul set di Blow Up perché Antonioni li aveva confusi con gli Who, ma fecero lo stesso una gran bella figura. Un po' di zucchero nel vostro caffè? Eccovi serviti R.E.O. Speedwagon. Still Early Bird Special, proprio come la prima colazione che viene servita in diner ai bordi delle highway americane. Early Bird, perché il vostro ospite questa mattina è Chuck Bird, e con voi la migliore musica in circolazione, come Chicago. XS, New Sensation. Oh, vi siete mai chiesti quali siano le canzoni più importanti nella storia della musica rock? Beh, è una domanda impegnativa, complicata, tanto che una prestigiosa rivista inglese ha deciso di affrontarla facendosi aiutare da personaggi importanti della scena musicale mondiale, da Ian Hunter a Tom Petty, da Mick Jones dei Clash a Wayne Kramer degli MC5. Tutti questi capaccioni hanno fatto le loro proposte e ne è venuta fuori una classifica di 100 canzoni, tutte importantissime, seppure per motivi differenti. Per esempio, al numero 16 di questa classifica c'è Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, che secondo Andy Partridge degli XTC ha dato via agli esperimenti sonici e all'interessamento dei media più importanti ai fatti del rock. Al 27esimo posto ci sono i Nirvana con Smell Like Teen Spirit, perché ha dato via a tutto l'alternative rock degli anni 90. Ma quali sono le tre canzoni più importanti per la storia della musica rock? Naturalmente il dibattito potrebbe essere infinito, ma secondo questa speciale giuria, al terzo posto c'è Heartbreak Hotel di Elvis Presley, perché senza di lui il rock and roll sarebbe rimasto una questione di proprietà della popolazione afroamericana. Al secondo posto ancora i Beatles con I Wanna Hold Your Hand, perché altrimenti non avremo band che scrivono le proprie canzoni. Al primo posto, non proprio inaspettatamente, Tutti Frutti di Little Richard. Io, per prendere due piccioni con una fava, ve la faccio ascoltare nella versione di Elvis. Peccato solo che non ci siano i Beatles a fare da backing band. Ah, wappa baluba balam bam boom. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Ba-ba-ba-loom-ba-ba-la-bam-boom. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She rock me to the east. She rock me to the west. She's a gal that I love best. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Ba-ba-ba-loom-ba-ba-la-bam-boom. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Bop, bop, bop, bop, bop, bop, hit it. Bamboo, I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy don't know what she do to me. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Ooh, Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. No ragazzi, non siete sfasati con l'orario. Questo non è Good Rockin' Tonight, la trasmissione rock and roll del Faulisi, ma Early Beer Special. Elvis Presley, grande ospite questa mattina. Ehi Cherie, ti vedo, sai, dietro il vetro. La mia Cherie, sempre puntuale, oltre che elegante e splendida, mi sta portando la mia tazza di caffè nero bollente. Ne volete un po' anche voi? Purtroppo non posso accontentarvi. Grazie Cherie. Mama told me when I was young too fast. Troubles will come, and they will pass. We'll find a woman, yeah, and you'll find love. And don't forget, son, there is someone. Early Bird Special, sì signori, tutti i giorni dalle 6 alle 7 Chuck Bird è qui a tenervi compagnia con le sue chiacchiere, ma soprattutto con la grande musica di Rock FM. Non ci credete? Ecco qui la prova, Rolling Stones, Beast of Burden. My back is I Rolling Stones sono da sempre considerati i ragazzacci del rock and roll, tra i primi a finire in tribunale per essere stati beccati con le tasche piene di droga. Ma nella storia del rock, altra band hanno seguito presto l'esempio degli Stones nel discutibile primato di cattivi soggetti. I Motley Crue, per esempio. La band glam metal californiana era costantemente alle prese con situazioni scottanti, fatti di sesso e naturalmente droga. Beh, anche il rock and roll, ma questo lo davo per scontato. Ci fu una volta che il loro bassista, Nikki Sixx, fu addirittura dato per morto. Morto per overdose, naturalmente. La band era appena tornata da un tour in Estremo Oriente per promuovere Girls, Girls, Girls. Dopo una devastante serata al Cat House, insieme a Slash, chitarrista dei Guns N' Roses, e alcuni componenti dei Megadeth, Nikki decise di farsi una bella dose, forse troppo massiccia, perché immediatamente dopo il bassista dei Motley Crue perse conoscenza. Arrivò presto un'ambulanza, ma quando partì nemmeno gli infermieri seppero dire che se Nikki Sixx fosse ancora vivo oppure no. Ma la notizia corse veloce e nel giro di pochi minuti tutta Los Angeles sapeva che Nikki Sixx era morto per overdose. Vince Neil, il cantante della band, fu svegliato nel cuore della notte da un amico che gli comunicava che Nikki aveva ormai tirato le cuoia. Allora chiamò l'ospedale dove l'avevano portato. Un'infermiera gli disse che Nikki Sixx se n'era andato strappandosi i tubi dal naso, le flebo dal braccio e mandando tutti a fare in culo. Nikki Sixx, che per tutta la scena rock di Los Angeles era già morto e quasi sepolto, scappò dall'ospedale solo con indosso un paio di pantaloni di pelle. Eccoli questi maledetti scavezzacollo. Dopo una storia del genere non poteva che essere Dr. Feelgood. listening to Rock FM. I used to like to walk the straight and narrow line. I used to think that everything was fine. Sometimes I'd sit and gaze for days through sleepless dreams, all alone and trapped in time, all alone and trapped in time. I wonder what tomorrow has in mind for me, or am I even in its mind at all? Perhaps I'll get a chance to look ahead and see, soon as I find myself a crystal ball. Soon as I find myself a crystal ball. Well, tell me where I'm going, I don't know where I've been. Tell me, won't you tell me, and then tell me again. My heart is breaking, my body's aching, and I don't know where to go. So tell me, won't you tell me. Benvenuti all'Early Bird Special. Se siete arrivati adesso siete un pochino in ritardo, visto che ci mancano pochi minuti ancora. Ma vi voglio ricordare che potete comunicare con il vecchio Chucky Bird, magari per raccontare a questa vecchia lenza del rock and roll le vostre esperienze in fatto di rock and roll. Ci tengo moltissimo. Scrivetemi a bird@radiorockfm.com. Per voi, Doobie Brothers. We'll be right back. Come tutte le cose belle, anche questo Early Bird Special si deve concludere. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con i rimanenti programmi da Rock FM. Noi ci risentiamo domani mattina, puntuali, dalle 6 alle 7, con Early Bird Special. Da Chuck Bird è tutto. Aloha!